Parte 3. Cavaliere amato. Io cercavo senza riposo l'uomo cavalleresco. Già pensa che il Santo Graal è troppo lontano. E il bicchiere si sta offuscando di rosso. Qualsiasi cosa, signore, ma spingimi avanti. Nuovamente il bicchiere brilla rosso e la luna fra gli alberi cade con la certa nebbia. Non c'è arrivo, non c'è sosta, non c'è partenza, ma il succedersi senza tregua. Questo sì, che ad ogni livello ne succeda un altro, per generazione spontanea l'aveva saputo dalla ruota che girava mentre i mondi finivano, a volte. Aver sbagliato di poco la direzione, egli pensa, con la vertigine dall'alto della vetta, non vedrò ancora le tue praterie e forse la mia fiamma verrà mangiata dalle ali dei corvi. Se tu non intervieni, angelo, sarò piombato nell'abisso. Ossa secche neanche il mantello servono a quel corpo. La gloria giunge dopo la sconfitta. Aver paura di vivere, molto più di morire. Entra il possibile passato nella proiezione del presente. Egli può scegliere come entrare da un'altra porta, si avvolge nel suo scudo atavico, ancora una volta osa, col rischio della fine, camminare sull'orlo e cedere, cedere, come montagna crollata sotto i piedi, briciole, briciole, la tentazione dell'aria. Ed io non so cosa cerco. Una battaglia di navi. Un pesce con la bocca aperta. Un fardello troppo pesante. Una luna rossa che spiuma. Sento gli angeli chiamarmi alla pietà. Al suo lato destro, dolce, rotta, stanca. Sento gli strilli degli angeli chiedermi la pietà dove nessuno gli bada o la riconosce. Gesù che gridi, Gesù che scrivi, Gesù che maledici la lebbra, la mia ulcera da scrivana. Sento gli strilli degli angeli che bramano. Sento la pietà afferrarmi, sento gli strilli degli angeli che dicono addio, l'ho sverginato io, sento gli angeli turpi chiamarmi alla pietà, sento la linfa ripiegarsi indietro ai padri stanchi, sento la pietà coinvolgere me e tutta la pietà, tutta la mensa preparata agli abissi della pietà, all'inno nazionale decaduto, all'abisso della volontà. Accolgo in veglia notturna i miei convitati di pietra pietrificata. Si siedono a mensa intorno al mio cuore e lo tribalmente pasteggiano. A turno acconsento e voraci i miei amorazzi più cari e sodali festeggiano. In rigoroso silenzio l'ergastolo che tutta tuteli l'innocenza imbattere e in levare attutito rimorso la pena che ancora mi resta da scontare. Il supporto cordiale mi sembra che assesti un duro colpo di stabile alla colpa per contrattura facendo il ponte perineale e lavori di pompa e lavori forzisti di un perenne sorriso mascellare. Dai capezzoli appuntiti volatilizza una soddisfazione che disavvezza, ma lo stimolo al biasimo anale persevera, sfiatando a fisarmonica. Allora, vezzosa fra i severi, spariglio ai sordidi gessati due occhioni grandi da morir dal ridere, e come sempre sommergibile il mio cuore in un grasso grosso isolamento aggrego. Festiva notte conviviale, che palpeggi incoronando l'aria, ammutolisci lo sbadiglio appesantito dalla cena che scoraggia, e distoglimi lo sguardo altrove dalla codardia. Lei ci tentò. Con lo sforzo delle sue supreme forze, essa attentò il ricordo dei sogni, ma ammaliava di più quel nero conosciuto dentro. Ancora lo squarcio non sembrava consistente. Non si arrivò. La vittoria ci aveva raggiunto galoppando, e senza tregua si arresero, la testa in basso. L'antico volere sembrò sospeso in un miraggio. Così il tempo accorcia e allunga le distanze e pretende la composizione del proprio volto compiuto. In quel momento l'eco si sciolse. Davanti allo specchio l'enigma fu percepito nella sua pura fuga di misura. Solo allora furono intatti i momenti del suo corso primo, e ogni frazione riconduceva al senso. Nell'oscuro verde della montagna notturna nascosto, introvabile nel maestoso ventre, come e quanto a lungo lo attese, col desiderio attorcigliato in corona nella sua mente. Come lo regge un desiderio incandescente che è l'orgoglio del suo andare. Per i suoi occhi bianchissimi, per le sue membra limpidissime, io vado cercando la gloria. Per le sue membra dolcissime, per i suoi occhi rapidissimi, io vado cercando gente che nasconda armi nella fratta. Per i suoi occhi bianchissimi, per la sua pelle lievissima, per i suoi occhi furbissimi, io vado cercando gente che nasconde. Per i suoi occhi leggerissimi e per la sua bocca fortissima, io cerco gente fortissima che nutra me e lui insieme nella notte fra le bianche ali degli angeli fortissimi, dolcissimi, leggerissimi. E cosa voleva quella folla dai miei sensi se non l'arsa mia disfatta, o io che chiedevo giocare con gli dèi e brancolavo come una povera mignotta su e giù l'oscuro corridoio? Oh, lavatemi gli piedi, scostate le feroci accuse dal mio reclino capo, reclinate le vostre accuse e scombinate ogni mia viltà. Non volei io rompere il delicato strato di ghiaccio, non volei rompere la battaglia crescente, no, giuro, non volei irrompere fra le vostre risa irrisorie, non più io correrò dietro ogni passaggio di bellezza. La bellezza è vinta. Ma che ricerco io, se la canzone della debole pietà non è altro che questa mia inventata invettiva che non so oppugnare, che in nessun altro partito che il tuo, nel mezzo d'un gracile cammino io cerco. E tu ti muori, io me ne lavo le mani e rimo anticamente con una modernità che non sospettavo nei miei imbrogli.